get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, questa è la nostra 44esima trasmissione. Io sono Caterina e con me oggi c'è Claudia. Qualche giorno fa sono dovuta andare, ahimè, in uno studio medico e, come forse troppo spesso succede, ho dovuto aspettare un po' prima di entrare. Normalmente in questi casi si hanno due possibili alternative per far passare il tempo. La prima è quella di continuare a pensare al proprio problema, magari parlandone con chi in quel momento ci è accanto. L'altra è quella di sfogliare una delle tante riviste lasciate lì appositamente e pronte per l'uso. Onestamente dico che prediligo generalmente la seconda, anche se insisto nel chiedermi perché mai si continuino a lasciare sempre le stesse riviste, magari vecchie di anni. Ma sfogliando proprio queste, ho avuto involontariamente una risposta. Ogni tanto andrebbero riletti gli articoli che compaiono sui giornali. Infatti me ne sono capitati due o tre relativi al periodo dopo elezioni. Tutti hanno messo un grande impegno nel propagandare come finalmente in Italia, così come in Francia, in Svezia, in Gran Bretagna, il governo abbia al suo interno le donne. Discutibile ottimismo, a mio avviso, considerato il fatto che la presenza femminile in questo governo, mettendo insieme Camera e Senato, arriva ad una percentuale pari al 10,1%. Se poi andiamo a vedere la presenza femminile nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, la percentuale è addirittura inferiore, 6 donne su 70 membri, pari all'8,6%. Discutibile ottimismo, anche perché nelle ultime tornate elettorali è diminuito il numero delle candidate presenti nelle liste. Pensate che nel 1994 le donne in lista per il Parlamento erano pari al 17% e già nel 96 la percentuale scendeva al 13%. Se poi andiamo ad analizzare tutte le cariche elettive, scopriamo che soltanto il 6% dei comuni è retto da sindaci donne. Gli assessorati vedono una presenza femminile pari al 15,7% e la carica a consigliere comunale vede solo il 19,2% di donne. A questo punto voglio riportare una frase tratta da un articolo preso da Io Donna, il supplemento del Corriere della Sera, che dice: con il governo D'Alema, tra ministeri e sottosegretariati, la presenza femminile è aumentata del 3% e le donne ricoprono il 20% dei ruoli governativi, percentuale in linea con la media europea. Discutibile ottimismo se si riflette sul fatto che la media europea è pari al 20% di presenza femminile. Senza dubbio c'è una grande voglia di Europa. E andiamo a vederla questa Europa. In Grecia la presenza femminile si ferma al 7,5%, in Austria al 18%, in Germania al 17,1%, in Irlanda al 15,6%. In Spagna le donne nel governo hanno una presenza alla Camera pari al 23% e al Senato al 13,6%. In Francia alla Camera è presente il 10,6% e al Senato il 5,9% di donne. Questa è l'Europa. Ma torniamo in Italia. Cosa significa avere una politica maschile? Cosa vuol dire avere così poche donne nelle cosiddette stanze dei bottoni, nonostante sia aumentato il livello di istruzione e sia diventata sempre più alta la presenza nel mondo del lavoro da parte delle donne? Belle domande, vero? Noi lo vediamo tutti i giorni. Vi ricordate per esempio i giudici della seconda sezione della Cassazione? Per 3 volte in poco tempo, almeno fino ad aprile di quest'anno, sono riusciti a risvegliare l'opinione pubblica con sentenze da Guinness dei primati. Ricordiamolo insieme queste sentenze. Prima, se indossi un paio di jeans è impossibile essere stuprata. Seconda, se l'uomo che infastidisce una donna è sinceramente innamorato, non può considerarsi molestia. Terza, Quando si costringe una donna ad un rapporto sessuale senza il suo consenso, anche se è incinta di 7 mesi, non ci si può avvalere dell'aggravante. Ma torniamo all'argomento principale di questo intervento: cosa vuol dire avere una politica maschile? Vi ricordo che nel suo interno la Cassazione vede la presenza di sole 10 donne su un totale di oltre 400 giudici. È di mercoledì scorso la notizia della assoluzione dell'istruttore di scuola guida Carmine Cristiano, che violentò una ragazza di 18 anni da parte della Corte d'Appello di Napoli. Vorrei ora ricordare con voi le tappe di questa vicenda. Nel luglio 1992, a Muro Lucano, una giovane donna viene portata dal suo istruttore di scuola guida in un bosco vicino al paese dove subisce una violenza sessuale. Dopo qualche ora dall'aggressione, la ragazza trova il coraggio e la forza di denunciare l'evento. Venne allestito un processo nel Tribunale di Potenza, che si concluse con l'assoluzione di Carmine Cristiano per insussistenza del fatto. Durante questo processo si è cominciato, da subito, ad invertire i ruoli. L'accusata sembrava proprio essere la ragazza, la quale ha dovuto rispondere del fatto che, per esempio, non ha mai detto di essere terrorizzata dal comportamento dell'uomo, non ha mai avuto remore nei confronti dell'istruttore, il quale si voleva far passare quasi come un amico di famiglia che più di una volta era andato a pranzo con lei. Si è messo in dubbio il suo stato d'animo perché la ragazza ha guidato la vettura per tornare a casa per oltre 30 chilometri subito dopo il fatto, cosa ritenuta molto singolare. Le dichiarazioni della ragazza sono state prese con riserva per il fatto che ha aspettato ben 12 ore prima di denunciare l'uomo. Si è discusso sulla verginità o meno della ragazza, sulla grandezza dell'ecchimosi sulla gamba che era grande appena come una lenticchia. Insomma, era lei a doversi difendere e lo ha dovuto fare per ben 4 anni. La sentenza di assoluzione, infatti, è stata erogata nel 1996. Si ricorse in appello e il pubblico ministero riuscì a far condannare l'istruttore Carmine Cristiano per violenza sessuale, infliggendo all'uomo una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione. Era il 19 marzo 1998 e sembrava che la cosa fosse risolta, appena 6 anni dopo. Ma il difensore di Carmine Cristiano ricorre alla Corte di Cassazione e nel febbraio 1999 la sentenza arriva davanti ai supremi giudici che stabiliscono, aperte virgolette, i jeans non si possono sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi li porta, chiuse virgolette. Si fa quindi un nuovo processo e la Corte d'Appello di Napoli, in questo mese di ottobre 1999, conferma la sentenza di assoluzione per Carmine Cristiano. Il tutto era cominciato nel luglio 1992 e dopo 7 anni e 3 mesi questo è il risultato. All'epoca della prima sentenza, molte parlamentari del centrodestra indossarono per protesta i pantaloni incriminati anche in Parlamento. Ma l'essere donna non garantisce una politica al femminile. Neanche il fatto che Alessandra Mussolini abbia querelato il senatore di Alleanza Nazionale Magni Albò per aver detto che le deputate indossarono i jeans nella speranza di farsi violentare, ma senza successo. Certo, Alessandra Mussolini ha fatto benissimo, per carità. Una frase del genere significa che chi l'ha pronunciata pensa che sostanzialmente siano le donne a provocare gli uomini. Ma c'è una constatazione amara da fare. Quelle parlamentari del Polo, con la loro politica, stanno minando molte delle conquiste delle donne ottenute con anni di lotta femminista. Il fatto che la Iervolino si chiami Rosa non è una garanzia di politica al femminile. Significativo, invece, è l'atteggiamento del sottosegretario Maretta Scoca, la quale si dissocia da tutte le polemiche e da tutti i dissensi verso la sentenza emanata dalla Corte d'Appello di Napoli, respingendoli come, aperte virgolette, le solite chiassose critiche approssimative e irresponsabili, chiuse virgolette. Questa è politica maschile. Ma adesso, per riprenderci un po', vi lascio in compagnia invece di sana musica lesbica. Ascoltiamo insieme Ferron con il brano Venus as Appearances. We'll be right back. maybe I should do it. I have my reasons, but they left me in the night. The quiet meets the cracking of a heartbreak. Some mountains you can wander in the night, and some mountains you're not supposed to know. Some people got the wild, wild hearts, and some others buy the time until they meet them. When coordinates are disappearing stars, maps can't help, you can't believe them. You need good vision, clear water in your flats, and time to feel the surging of your heartbeat. Your best companion is the one that's gonna ask about your soul line connection to your foolish feet. Some Vi ricordiamo che state all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane, sulla frequenza 87-900 di Radio Onda Rossa. Il nostro numero dove contattarci sia telefonicamente o per mandarci un fax è lo 06-6864-201. In questi giorni, giornali, radio, televisione e sicuramente anche il barista sotto casa che vediamo tutti i giorni per un caffè, parlano, oltre che del più e del meno, anche di una grande insoddisfazione, della pesantezza di vivere, dovuta sicuramente all'altra metà dell'emisfero, le donne. Questo meccanismo di trovare un capo espiatorio ai propri problemi nelle donne non è cosa nuova. Vede infatti nell'educazione dei figli, sulla professione del marito, sull'economia familiare, per esempio, e non ultimo il tanto famigerato desiderio sessuale. Su un quotidiano di venerdì 15 ottobre, infatti, riportato a caratteri cubitali, compare il titolo «Poco desiderio, attenti, la colpa è delle donne». La lettrice che legge questo titolo e che ha coscienza del particolare periodo storico che sta attraversando può anche girare pagina perché sa ormai che il rafforzamento del potere parte da chi sempre lo ha detenuto e passa anche con la divulgazione di opinioni molto superficiali, imminenti dottori come in questo caso. Ma a mio parere il grosso pericolo è che, non essendoci una grande coscienza tra le donne, non solo gli uomini le accusano, ma soprattutto le donne si riconoscono come portatrici di tanto disagio. Anche perché da secoli si portano dietro un profondo senso di colpa che ormai si è incancrenito nella loro femminilità. L'articolo prende spunto da una ricerca di andrologi dell'Università di Pisa che vede 70 maschi italiani su 100 alle prese con difficoltà sessuali. Pare che la donna richieda prestazioni lunghe e soprattutto di qualità, e questo toglie al maschio il ruolo di seduttore e primo protagonista del rapporto, procurandogli ansia e tempeste ormonali. A parere di illustri medici, le donne, che giustamente si devono sentire in colpa, sono tutte quelle che svolgono un lavoro autonomo e gratificante, come manager, insegnanti, giornaliste, eccetera. Quelle che non creano problema sono di conseguenza le casalinghe. Ma signore, mi rivolgo a tutte le donne che mi stanno ascoltando, lesbiche ed eterosessuali, abbattete in voi il vostro senso di colpa. Vivete pienamente la vostra vita, abbiate il coraggio di unirvi sessualmente a chi volete, sentendovi sempre un soggetto e non un appendice del maschio. Ascoltate il vostro piacere e non state lì a ridurvi per il piacere dell'altro. Costruite il vostro futuro. E se questo comportamento, assolutamente legittimo, creerà dei problemi all'altra parte dell'emisfero, sappiate che quella parte è effettivamente l'altra parte dell'emisfero e non la stessa. La signora Capulli, giornalista di TG2, intervistata a questo proposito, si pone il problema di avere intimidito il marito i primi tempi in cui andava in video e precisa che lei non è assolutamente una donna in carriera e che non si porta mai dietro questo ruolo. Ma dico io, e se fosse, che male c'è? Perché una donna che vuole fare carriera si deve sentire di intimidire il compagno? Perché non può vivere semplicemente quello che lei è? Ma vogliono veramente le donne eterosessuali regredire periodi arcaici quando la loro esistenza era relegata solo e esclusivamente al ruolo di madre, moglie, amante? Riflettete, donne, riflettete, non è uno scherzo. Qui sotto, qui, proprio sotto sotto ci stanno togliendo ogni libertà. Da parte mia ammetto di aver risolto il problema alla radice, non considerando il maschio come il mio referente e quindi fuori dal mio interesse. Non che con questo voglia fare del proselitismo, ma mi si spezza il cuore a vedere che comunque dopo tanti anni di lotta al vostro fianco, dopo tante battaglie e vittorie, riaffiori il perbenismo e soprattutto la legittimazione del maschio rispetto a un potere che le donne ignare hanno contribuito a costruire. Se gli uomini stanno in crisi, cosa che in ultima analisi a mio parere non credo, non è certo a causa del nostro esistere. La loro crisi non è certo vittimistica, ma anzi è esternata e riscontrata nelle pagine di cronaca nera, dagli stupri alla violenza sui minori, alla utilizzazione sempre più massiccia della donna oggetto nelle pubblicità commerciali. E non voglio dilungarmi sulla presenza, fonte di ostacolo, delle donne nell'economia, nella politica e nella vita pubblica. Penso che oggi più che mai sia necessario riflettere, darsi tempo e agire per costruire una realtà che non sia omologazione. Parlare, metterci in gioco e soprattutto non cancellare con un colpo di spugna tutto ciò che abbiamo costruito in tanti anni. Prendo come spunto una riflessione di Edda Billi da Il Paese delle Donne a proposito della presentazione del libro La città della dea perenna di Maria Paola Frenzuoli. Edda dice: non è l'omologazione al maschile il senso delle mie lotte trentennali, ma la presa di potere della mia vita in quanto donna in autonomia e libertà. Ma quando vedo che passa in Parlamento una legge che, per pari opportunismo, viene definita come conquista di civiltà, come il servizio militare delle donne, io ricordo con forza a tutte noi ciò che dicevamo. In un mondo anche a misura di donna, gli eserciti, le armi, le guerre, le morti per guerre devono scomparire, anche per gli uomini. Le pari opportunità era per loro adeguarsi alle nostre aspirazioni. Oggi devo sconsolatamente prendere atto che questo tipo di emancipazione ha vinto e chi ha perso è la liberazione per la quale lottavamo. E tanto male fa il silenzio che l'accompagna, ma tant'è. E ora ascoltiamoci un brano musicale tratto da Woman's Heart, dal titolo Only a Woman's Heart. to solo as only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. The tears that drip my bewildered eyes taste of bittersweet romance. You're still in my hopes, you're still on my mind, oh. And even though I manage on my own, my heart is low, my heart solo, as only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. Restless eyes feel my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted love. And while I know that I'll survive alone, the heart is low, solo, as only a woman's heart can be, as only a woman, as only a woman, as only a woman's heart can know. My heart is low, yes, my heart is so low. Giovedì 14 ottobre sul giornale La Repubblica è apparso un articolo relativo all'iniziativa presa dalla Regione Lombardia rispetto allo stanziamento di fondi per aiutare le famiglie. Questi soldi potranno servire per il mutuo sulla prima casa, per garantirsi un asilo nido che accolga i propri bambini e le proprie bambine, ma anche per l'assistenza domiciliare. È una somma considerevole, infatti si aggira intorno ai 100 miliardi. Ma, eh sì, c'è un ma. Vi ricordo che la Regione Lombardia è guidata da Roberto Formigoni del Polo, quindi un ma c'era quasi da aspettarselo. Questa iniziativa cela nel suo interno una meschina catalogazione di requisiti che garantiscono l'accesso all'utilizzo dei fondi, che non è certo priva di giudizi sostanziali su ciò che è bene e ciò che è male, chiaramente dettati da Formigoni e dal suo staff. Per Formigoni è bene, quindi buona, giusta e degna di nota, la famiglia. È male, quindi cattiva, ingiusta e deprecabile, tutta quella serie di aggiustamenti e adeguamenti che il bisogno di famiglia ha fatto nascere. Mi spiego meglio. Per la Regione Lombardia è da aiutare la famiglia, ma solo quella che si crea dall'incontro tra un uomo e una donna che si uniscono, e che si uniscono per la vita. Infatti non potranno godere di questo finanziamento i divorziati e le divorziate, le famiglie di fatto, i genitori sposati che vivono da soli con i figli e, mi sembra chiaro, i gay. L'opposizione di sinistra, insieme alle associazioni laiche, hanno protestato affermando che il Polo vuole premiare solo le famiglie tradizionali. Rifondazione Comunista, dati alla mano, puntualizza che oggi come oggi le famiglie tradizionali raggiungono in Lombardia solo il 43% del totale. Insomma, secondo i gruppi del centro-sinistra, meno chiaramente i popolari che come sappiamo sono contro le famiglie di fatto, la legge del Polo introdurrebbe una discriminazione sostanziale. Io ritengo che questa proposta di legge sia quanto mai assurda e improponibile, nonostante personalmente non aspiri a crearmi una famiglia con tutte le accezioni che di questa possano esserci, però, essendo personalmente una accanita sostenitrice della valorizzazione delle diversità, non posso far altro che dissentire fortemente con la Regione Lombardia e con quello che vorrebbe fare. C'è una cosa da dire però, Formigoni è, senza dubbio, uno che sa mantenere in attivo i bilanci. Qual è il modo migliore per non far andare in rosso i conti delle casse regionali se non quello di fare in modo che i soldi stanziati restino in eccedenza? È facile farlo, basta escludere dall'accesso ai fondi i cattivi, i peccatori e i contronatura. Ed ora, con un po' di rabbia addosso, ascoltiamo insieme Mariella Nava con il brano Voglio diventare ricca. Voglio diventare ricca, sì, casi, voglio diventare piena, sì, più piena di così. Voglio diventare bella, è nuova a modo mio. Scusa, sai dirmi, sì, se in giro in America o qualche zio. Voglio diventare ricca, ricca, ricca dentro. Voglio essere piena, più piena di sentimenti. Provare a fondare un nuovo movimento, fissare un tiro a segno, puntare e fare. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto sugli 87.900 di Radio Onda Rossa, e vi ricordo anche il nostro numero di fax e telefono, che è lo 06 68 64 201. La nostra email è clrbp@hotmail.com. Se volete telefonare anche qui presso la radio, il telefono è 49 17 50. Le voci che state ascoltando sono quelle di Claudia e Caterina. Dopo 10 anni di esitazione e di polemiche, il PAX, patto civile di solidarietà, che dà uno statuto legale a tutte le coppie non sposate, comprese quelle omosessuali, è diventato una realtà in Francia. La notizia ha segnato la definitiva sconfitta dell'ostruzionismo della destra. Tutti contenti nel quartiere di Meret, tutti a festeggiare questo riconoscimento di esistenza tanto atteso e la speranza della fine della ghettizzazione. È un passo verso la libertà, dicono, il muro di Berlino che crolla, aggiungono. La proposta di legge è stata approvata con 315 voti favorevoli contro 249 contrari. L'opposizione non si dà per vinta e rifiuta una legge che, dicono, pone il principio dell'uguaglianza tra etero e omosessuali. Ed è proprio questo il punto, a mio parere, su cui riflettere. In un mondo eterorientato, patriarcale, dove secondo i dettami di una confessione religiosa si pone la famiglia come primo indiscutibile organo di Stato, com'è possibile parlare di uguaglianza tra eterosessuali e omosessuali? Non credo che per esistere sia necessario un riconoscimento di esistenza, una legge che sancisca questo. Non credo che una legge dia la speranza della fine della ghettizzazione. Ghettizzazione per me è un concetto creato da una maggioranza rispetto ad una realtà minoritaria, ma se questa realtà fosse in grado di darsi valore, di creare un'opposizione, di venire fuori e di lottare per la propria libertà, non sarebbe più una realtà ghettizzata, ma una minoranza che farebbe opposizione al senso di omologazione e ad un ordine dato familistico che niente ha a che fare con il nostro concetto di comunità. Personalmente credo che un'unione tra due esseri dello stesso sesso sia basata sulla libertà reciproca di separarsi quando non sussiste più il piacere di stare uniti. Quindi, più che un riconoscimento di unioni di fatto, preferisco immaginare il riconoscimento del diritto del singolo. Ora, per la musica lesbica indipendente, ci ascoltiamo dall'album delle Srasi, il titolo dell'album è Give It All Up, I'm Love With Mother Nature. No to the last 5,000 years. ed ora riprendo a parlarvi sempre sugli 87-900 di Radio Onda Rossa con un breve racconto di vita vissuta a proposito di comunità lesbica. Venerdì sera, dopo un'estenuante giornata di lavoro, esco stanca come parecchie sere e più tardi mi preparo per incontrarmi con altre amiche lesbiche che non vedevo da parecchio tempo. Per la verità pensavo fosse una delle tante serate di gruppo davanti ad un piatto caldo e invece, miracolo del pesce fresco, delle fresche e saporite ostriche, delle cozze bianche e rossicce che si schiudevano davanti ai miei occhi. Ma qualcosa succede. Cosa strana era che le coppie presenti quella sera non avevano più quel cliché comportamentale che spesso hanno: stare vicine di posto, dividersi il piatto o rispondere in due quando una qualsiasi domanda viene fatta ad una sola. Eravamo in otto, ad un tavolo rettangolare, e mentre fiumi di vino bianco scendevano allegramente attraverso le nostre bocche vogliose, si facevano appassionanti discorsi sulle nostre vite. Ognuna di noi era parte di tutte e tutte erano parte di ognuna. Si era ricreato, per 4 ore circa, quel senso di appartenenza, quel senso di complicità e di piacere di stare insieme che da tanto tempo non sentivo, o meglio, non sentivo, ma neanche all'interno del mio gruppo politico. Si parlava di economia, politica, privato, coppia e salute e godevamo forte del nostro essere lesbiche. Il tempo quella sera si era fermato. Tutte noi avevamo qualcosa da dire, il desiderio impellente di rivederci e dirci cose. Avevamo iniziato con antipasti coloratissimi di frutti di mare e finiti con squisiti dolci come la meringa affogata al caffè. Le nostre facce rispecchiavano pienamente quelle che alle nostre pupille gustative stava accadendo. Zompettavano di gioia. Quello che ho vissuto io, ma anche Cristina, presente a questa cena, mi ha lasciato scritto qualcosa. Dice: dopo un po' di tempo sembra che gli incontri più proficui, nel senso di più ricchi di scambio di idee, opinioni, proposte operative, non avvengono più nei luoghi deputati da sempre, ossia le sedi politiche, ma intorno ad un tavolo straboccante di vino e cibo. E così è stato anche venerdì sera, quando l'appuntamento che ci eravamo date è diventato realtà. In 8 lesbiche, che si conoscono da vecchia data, con trascorsi politici che un tempo ci hanno viste insieme, finalmente riprendevano il filo di racconti quotidiani, persi o interrotti al presente. E insieme al fiume di vino e acqua minerale, ebbene sì, ci sono anche delle astemie tra di noi, riprendeva anche il fiume di parole anche politiche. Per coloro che sentono la struttura di gruppo troppo stretta o la casa internazionale crea loro l'ansia o le repelle, era la situazione ottimale. Le scelte di vita, ancora non giunte, non vinte dall'omologazione, davano parola ad un disagio di silenzio collettivo, reso meno amaro dalle cozze e dal riso al salmone. Il ritornare su questioni lasciate in sospeso fornisce chiavi di lettura utili al presente. C'è chi tra noi combatte la sua battaglia individuale nella lotta quotidiana tra tassi e prestiti, lavoro, poco tempo e tanta stanchezza. Chi da sola cerca di analizzare e dare senso al percorso fin qui fatto all'interno di una pausa riflessiva. Chi continua stancamente, ma con la consapevolezza che lasciare un luogo come la Casa Internazionale sarebbe una perdita troppo grande. Di una cosa tutte siamo consapevoli, comunque. Bisogna ritrovare il filo di pensiero comune. Ma c'è? Quale? Il separatismo? Ma non diciamo cretinate. L'occupare neanche un centinaio di metri quadri senza maschi non è di certo separatismo. Immettere energie in lotte sindacali o di partito senza darne un segno lesbo-femminista non è certo separatismo. Forse è giunto il momento di farne oggetto di riflessione collettiva. Approfitto di una pausa, e ricambio il regalo proveniente dall'Egitto con l'idea celtica acquisita in Irlanda. È bellissima. Non avevo dubbi che avrei fatto centro. Abbiamo ancora estrema necessità di simbolico. Si riprende la discussione. Quando nei nostri luoghi non esce una sola parola di fronte alla legge che permette l'immissione delle donne nell'esercito, che di fatto segna la vittoria di un'emancipazione livellata su di una parità al maschile, è la nostra lotta di liberazione che è stata battuta e non ci devono essere di conforto i 9 voti contrari di rifondazione. Non prendiamo atto, né prendiamo atto, ma sappiamo che anche le motivazioni del nostro no sarebbero diverse dalle loro. Piccola pausa per un brindisi dedicato alla nostra amica, che non è qui con noi perché l'essere innamorata la porta ogni 15 giorni in un'altra nazione. Essere testimoni della sua felicità ci è di arricchimento, perché questo amore non la fa sparire, ma offre spunti alle altre sulla diversità di percorso, sulla coppia, sul trasformare l'energia vitale dell'amore in iniziative politiche. Si riprende. Ieri sera l'ennesimo voltastomaco della tele, maschi che continuano a parlare di corpi di donne, ma fa di silenzio. Eppure le opinioni dei due maschi non sono uguali. Infatti, ma adesso c'è il buonismo con cui si ribatte, e quando si ribatte si dice io la penso diversamente da te. Ma è facile, anche se non vittorioso, controbattere al patriarcato, difficile è comporre un pensiero. Comunque, quando arrivano e arriviamo tutte quante a mangiarci i dolci, siamo anche arrivate a darci l'appuntamento per martedì prossimo, per iniziare il tanto cercato scambio. È da maggio che se ne parla, con le lesbiche del Mario Mieli. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.